快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。 Alas, my love, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you so long, my love, my lady Greens. 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。今天首先为您带来的是1992年帕瓦罗蒂和朋友们慈善音乐会，曲目有潘尼斯安吉利卡斯、苦难、为你哭泣、小伙子、再多一天、圣母颂、在利物浦、岗哨、呼啸、太多的爱会毁掉你、也许是我、19号房间、人类的路、女人善变。 Oh, right. saranno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, perso. Sono il santo che ti ha tradito quando eri solo, che vivo altrove e osservo il mondo dal cielo. E cado in fondo al mare, io muoio per te, io muoio per te. Dal fondo oscuro e vano, canzoni antiche di tristezza, ma ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te, per ogni stella un anello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare, dimmi quanto tempo, quanto carità di non dico re, ma la città riposa in pezzi dove il vento urla alla volpe. Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione è tutto questo, fare prigione la mia vita se sei la sposa per un altro. I miei nemici siano liberi, io caro io sono qui che muoio per te, muoio per te. E solo come mai, così solo come oramai, con tutti i miei domini, cosa sono qui, sono niente così, non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore. Non passo da Gerusalemme, io solo il miglio dalla luna, e sotto il cielo di leoni di stelle, con cuore che sono pianeta lontano, che gira intorno a cade giù, con archi di tristezza, io muoio per te. E anche se hai le chiavi e distruggi quel che ho, ogni prigione in polvere, ne dici più non ho. E i regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. Verdi come il mare, poi l'improvviso uscì una lacrima e mi credette di affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene, sangue

Brother, can you spare a dime for a cup of coffee? A slice of bread? Anything, man. Anything. Man, don't throw that to that dog. Hold up, wait, wait, hold up. Jeez, man. Treat animals better than they treat your fellow man. God, what am I doing tonight? It's getting cold out here. Ah, Thank you. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue. The light is pale and thin, like you. No sound down in this part of town.For the little joke, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. It sounds like he's missing some favor, someone that he knows he can't have now. And if he isn't, I certainly homesick. 4 o'clock that told the same time. Sometimes you made no sense to me. If you lie on the ground in somebody's arms, you'll probably swallow some of their historyThe girl who sings for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working. Spread your memory all through the sky. In LiverpoolSunday, no reason to even remember you now, except for the boy in the belfry. He's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour.Like he's missing something or someone that he knows he can't have now. And if he isn't, I certainly adesso non ne ho più, ho gli occhi fissi al cielo, pieni di pianto. turned cold, the stars looked down, and you hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? All effort, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Your belly's empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one will you see. You ask yourself, who could it be? The solitary voice that speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Not the easiest person I've ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some will say I should let you go your way, you only make me cry. If there's one guy, just one guy, laid down his life for you and I, hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. sont qui passent, maman. M'envoie toujours des câbles sales, des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman, m'offrent toujours une jolie chambre avec terrasse, maman. Les hommes qui passent, je sens qu'ils ont le cœur à marée basse, des envies d'océan. Les hommes qui passent, pourtant, qu'est-ce que j'aimerais envoyer un. Les hommes qui parlent, maman, ne me donnent jamais rien que de l'argent. Les hommes qui parlent, maman, leur nuit d'amour sont des étoiles qui laissent trace, maman. Les hommes qui parlent, violents, sont toujours ceux qui ont gardé un cœur d'enfant perdant. Les hommes qui passent tout le temps, qu'est-ce que j'aimerais en voler un pour un mois, pour un an. Les hommes qui passent, maman, ne me donnent jamais rien que de l'argent. Avec mes rêves et mes angoisses d'avant. Les hommes qui passent pourtant, qu'est-ce que j'aimerais en voler un pour un mois, pour un an. Les hommes qui passent, maman, ne me donnent jamais rien que de l'argent. Ormai non sentosi felice appieno, nel seno non liba amore. La donna è mobile, vuole più nel vento, tutta la gente e i pensieri, i pensieri. 请欣赏一组长笛和吉他演奏的世界名曲，曲目有《圣母颂》《绿袖子》《钟声的颂歌》《天鹅》《在马槽里》《好国王温西斯拉斯》《来吧来吧埃曼纽尔》。我们听到了空中天使的声音，《牧歌》《明天是我的跳舞日》《平安夜》《第一束光》《大地上的和平》。 Thank you. Thank you.

Thank you. 今天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。